Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Avete presente il tedesco immaginario? Il tedesco immaginario è come noi da sempre, da secoli, se non da millenni, ci siamo sempre immaginati i tedeschi. Ora, i tedeschi sono una realtà concreta, percepibile, l'abbiamo percepita e li stiamo percependo in questo momento. Però a pari passo della realtà del tedesco reale c'è un tedesco immaginario. Un tedesco che è sempre galleggiato nel nostro comune maniera di sentire le persone che stanno ai confini, le persone che superano i confini, le persone che definiscono i confini. Non sto qui a fare a tracciare excursus storici, ma figuriamoci, i tedeschi sono sempre stati visti dai nostri conterranei, da coloro che hanno abitato i luoghi che noi abitiamo, prima ancora si chiamassero Italia, che comunque erano popoli mediterranei, erano questi popoli diversi da loro, molto diversi da loro. Nei tempi più recenti dell'era moderna il tedesco era il nemico per eccellenza, il tedesco invasore. Contro il tedesco si cementificava l'orgoglio nazionale per riconquistare parti del nostro territorio che erano state usurpate dal tedesco. Ma prima ancora tutto il Risorgimento è stato una lotta al tedesco che comunque impediva all'Italia di rappresentarsi come un'unità nazionale. Più recentemente il tedesco era anche l'alleato. Mussolini disse che gli italiani ingiustamente avevano un pregiudizio tedeschi e lui avrebbe senz'altro aiutato a superare, infatti si alleò con i tedeschi. Quindi i tedeschi diventarono qualcosa di diverso, l'alleato che poi è diventato il nemico, il dopoguerra, il tedesco nel ricordo del passaggio cruento del tedesco sul nostro territorio. Poi nel dopoguerra, ancora sto naturalmente radicalizzando, sintetizzando, il tedesco era il padrone di casa dei nostri immigrati. Gran parte dei nostri immigrati vanno in Germania. La Germania vista dal punto, dalla soggettiva dell'immigrato, è un po' come l'Italia oggi vista da un extracomunitario, da un cittadino di un paese lontano. Un territorio in cui c'erano delle regole, c'era un rigore, c'era comunque del lavoro. È una terra in cui si costruirono le speranze per poi tornare a avere una vita decente e dignitosa nel nostro paese. Parimenti, il tedesco in generale, la popolazione tedesca, era una sorta di popolazione di una nuova colonizzazione dei nostri primi luoghi di villeggiatura. I tedeschi che scendevano anticipati sulle nostre stagioni estive e colonizzavano le nostre riviere, soprattutto le tedesche. Lì inizia una prima rivalsa. Il maschio latino rimpone il proprio sigillo passionale sulle donne tedesche, che cominciano poi nuovamente a costruirsi tutta una serie di ulteriori luoghi comuni. Gli uomini tedeschi sono dediti alla birra, gli uomini tedeschi sono tagliati con l'accetta, gli uomini tedeschi non sono passionali e quindi le donne tedesche cercano amanti latini. Su un giornale tedesco si è proprio espresso ieri un giornalista proprio a proposito degli italiani per rovesciare il luogo comune: gli italiani sono infidi perché portano via le fidanzate. Ecco, questo mito che ormai appartiene soltanto a un'iconografia abbastanza sciatta. Ma andiamo ancora avanti, vediamo un po', visto che questa sera si avrà nei nostri parametri contemporanei e attuali di percepire comunque le culture il grande scontro epocale Italia-Germania. Per la maggior parte degli italiani il confronto fra italiano e tedesco è un confronto sui campi di calcio. Su questo non ho assolutamente grandi elementi di valutazione, ma questo naturalmente è ciò che anima, è ciò che ispira, è ciò che allucina l'immaginario del appunto la figura immaginaria del tedesco negli italiani in questo momento. La Germania ha vinto un girone rivelatosi assai duro. La Germania ha rimontato uno svantaggio di 2 gol all'Inghilterra. La Germania si è sempre fatta onore nella rimessa e siccome organizza la prossima edizione del Mondiale in casa sua, farà l'impossibile per portare in Germania la Coppa. Tuttavia, se l'Italia ripetesse la partita e il rendimento. Tutto il luogo comunismo che ho molto rozzamente e sommariamente accennato oggi si concretizza e si sintetizza nella contrapposizione delle due squadre. Avete sentito, questa era la telecronaca Rai di Nando Martellini nella storica Italia-Germania 4-3, che era la semifinale del campionato del mondo che del 17 giugno 70 allo stadio Azteca, Città del Messico, tra Italia e Germania Ovest. Non ho nessuna memoria di quella giornata, ma fa parte di una mia particolarissima equazione individuale. Il mondo intero ricorda con la lacrima agli occhi quel fantastico giorno in cui gli italiani sconfissero i tedeschi. Accadde altre volte e con molta probabilità accadrà anche questa sera. Ma vediamo di fare un passo indietro, visto che è così importante e così pregnante del nostro immaginario oggi parlare del confronto fra italiano e tedesco. Ecco, voi come lo vedete il tedesco immaginario? Nella vostra cultura familiare, nel vostro iter di studi, nelle vostre esperienze professionali, nei racconti, nelle esperienze, com'era definibile il tedesco immaginario? Oggi il tedesco immaginario direi che è quello delle barzellette, le classiche barzellette in cui c'è l'italiano, il tedesco, non so, il giapponese, che si confrontano sempre, in cui l'italiano esprime sempre le proprie caratteristiche di callidità, di furbizia, di adattabilità, e il tedesco naturalmente è tetragono, è una persona senza sfumature, è una persona che come un tedesco, appunto, come viene detto nel luogo comune. Oggi diciamo l'immaginario è più legato alla questione economico-finanziaria, una nuova guerra con la Germania, sintetizzata poi nella figura della donna austera, ma ancora di più assolutamente incorruttibile e tedesca a tutti i punti di vista, la cancelliera Angela Merkel, orrendamente e sconciamente definita come donna abbondante ma priva di attrattive sessuali da importanti uomini politici italiani. Ma non se ne può fare una colpa al vertice quando noi tutti siamo cresciuti su questa visione del tedesco e la tedesca. Ricordate, adesso dirò qualcosa che mi condannerà all'esilio perenne, ma tutti noi, io ragazzo degli anni 50, ma penso che fino alle generazioni che hanno fatto le scuole elementari negli anni 70, persone degli anni 80, esiste nella letteratura di formazione basilare delle scuole elementari un aneddoto che si è sempre tramandato di classe in classe elementare, che definisce perfettamente il sentimento nazionale nei confronti della cancelliera tedesca, che è stato così vilmente espresso dal precedente premier. La ricordate? La barzelletta, la dico brevemente, tanto è di un'innocenza veramente raccontabile alla radio. La famosa barzelletta del funghetto trallalla, ve la sintetizzo per chi non la sapesse, nella solita boccaccesca contrapposizione fra suore e frati, il fratacchione lubrico si nasconde sotto il muschio facendo emergere la propria rubizza virilità in un angoletto dove crescono dei funghi, e naturalmente escono le suore a cogliere i funghi. E qui si nota subito la contrapposizione, il luogo comune come si esprime. La suora italiana, carezzevole, irenica, passeggia nel bosco, fa un funghetto trallalla, due funghetti trallalla, tre funghetti trallalla, e si prodiga e si prolunga nella raccolta del fungo carnale, che in realtà è difficile da estirpare, e sta lì, dai, fa felice il frate. Ma ahimè, poi fuoriesce anche dall'attiguo convento di suore germaniche la suora tedesca. Sto raccontando quello che tutti sapete, sapete come finisce, è talmente stupida la barzelletta. Ha in funghette trallalla, sva in funghette trallalla, dra in funghette trallalla, ma però il gesto estirpatore della suora tedesca la determina nella sua impossibilità di dare emozioni, ma nella sua drastica capacità di creare soltanto vulnus, ferite, e estirpa naturalmente la verga lussuriosa del frate che emergeva dal muschio. A Monica di Baviera, in Germania. E in questi feste, che si chiama Clubfest, si canti, si beve birra, è una festa bellissima. Nella Beckenbaustelle di München ci sono 5.000 posti a sedere e lì si canta delle canzoni dolci, perché voi italiani pensate, tedeschi non sanno la musica, non canta, solo faccio le mie, torne, com'è quelle, le torne del Sorrento, quelle cose che, beh, insomma, guardiamoci, sono belle. Ma senti queste, in Germania ci sono delle canzoni dolcissime. Meine blonde, meine... Ma cosa? Tutti cantano! No, io solo, tutti! Poi via! Meine blonde, meine liberore là. Senti che bella! Meine blonde, meine... A conferma di questa idea del luogo comune, del tedesco immaginario, Paolo Villaggio, nella prima grande, assoluta e radicale rivoluzione della televisione italiana, in un programma pomeridiano della domenica, fa il professor Kranz, che è un tedesco, che è cattivo. Per quanto erano dolci, mielati, zuccherosi, mago zurlieschi, tutti conduttori della televisione bernabeiana, la televisione della Riforma, televisione che celebra il professor Kranz, è una televisione in cui il conduttore è un sadico, è cattivissimo, tratta il pubblico come animali, come appunto un tedesco potrebbe trattare gli internati in un lager. Ecco, qui Villaggio è lucidissimo nel andare incontro, abbracciare il luogo comune del tedesco immaginario. 800240024, io questa mattina vorrei assieme a voi definire come voi vedete, come voi vi ritrovate, come voi vi sentite interpreti di questa figura di un tedesco che esiste, che non esiste, che comunque noi ce lo siamo sempre prefigurato così, e questa sera con le trombette in mano, con i bruscolini, con i panini con la porchetta, con le magliette azzurre, comunque sia, qualunque cosa vedremo noi in campo, il tedesco ce lo vedremo sempre e unicamente così. Quando ci trasferiremo ad Amburgo vi accorgerete dell'affare che vi ho fatto fare. Siete entrati nell'organizzazione commerciale di Erlmeyer, la più importante di tutta la Deutschland. L'unica cosa è che questa possibilità che io vi do bisogna saperla meritare. Avrete fortuna e benessere. La merce anticipata, il 10% in meno di quello che pagate a Don Raffaele. Risiederete ad Amburgo, notoriamente città del piacere. Donne nude, oh! Non perdete la testa, usatele con parsimonia perché io sono responsabile di tutta la baracca. Das muss alles in Ordnung sein. Hab ich mich Klaus gedrückt? Il signor Meyer le ricorda che tutti devono essere in regola con il permesso di vendita. Tutti. E si capisce. E come? È la prima cosa. Abbiamo buono, guarda. Alberto Sordi nel film di Francesco Rosi, I Magliari, il punto di vista dell'italiano che va a fare affari in Germania. Guardate, nell'algida freddezza e rigidità e mancanza di espansività che l'italiano della Riviera attribuisce al tedesco, di cui concupisce e seduce le donne con il suo fascio latino, però l'italiano quando va in Germania percepisce il non bigottismo, la mancanza di ipocrisia del fatto che lì esistano casini, esista libera vendita di carne umana, esiste un quartiere intero dedicato al puttanesimo che in realtà infarcisce solo i pensieri, soltanto le ombrose periferie dell'immaginario nazionale, o perlomeno nella sua esplicazione. Stefano Morigi, buongiorno. Stefano Morigi è morto questa mattina, già lo stiamo cercando più volte. Filippo Daverio, buongiorno. Oh, buongiorno a voi. Allora, Filippo Daverio, io con Filippo Daverio e Stefano Morigi, cioè un filosofo e un critico d'arte, volevo definire la figura del tedesco immaginario. Non so se lei ha ascoltato o riuscito a sentire l'inizio. Io sono convinto che noi da secoli coltiviamo sempre un immaginario rispetto al tedesco, che oggi in Italia si concretizza nella squadra di calcio, ma in passato ha seguito anche molti altri punti di vista. D'altresì, i tedeschi come ci hanno visto, secondo lei, Daverio? Come ci guardano i tedeschi a noi? Sì, così vediamo l'italiano immaginario e il tedesco immaginario. Come un incrocio da un lato di contesse e dall'altro lato di cucinatori di spaghetti suonando il mandolino. Cioè siamo sempre duplici, come noi guardiamo duplici loro, cioè loro per noi sono sia da un lato Bach, Beethoven, Hegel e dall'altro lato sono anche Sturmtruppen, cioè tutto si fonda sulla confusione, perché l'Europa non sa niente dell'Europa in realtà, nel gioco della confusione tutto si equivale, tutto si confonde e noi viviamo una sorta di cose come dei moscerini in una lanterna, corriamo di qua e di là e per un po' di tempo ci stanno antipatici, poi dopo però l'inno dell'Europa è scritto da un tedesco, mi sembra. Prima l'inno dell'Eurovisione era scritto da un francese, la Charpentier, il Tedeum. Ci spostiamo da un'area all'altra, non riusciamo mai a far passare un inno dell'Europa scritto dagli italiani, porca miseria, questa è una fregatura tremenda. E questo ci viene perché alla radice siamo ancora legati ai guelfi ghibellini. C'è chi ama il cucco e c'è chi odia il cucco, c'è chi cerca il titolo nobiliare che il tedesco gli dà e c'è chi invece vuole quello papalino. Poi abbiamo spostato i tedeschi un po' sui russi o forse su Mosca, poi abbiamo spostato alcuni sull'impero americano, ma non fa niente, questo rapporto fra amare e temere lo straniero rimane stabile. E anche l'idea che da loro ci possa venire dell'ordine, c'era già ordine, c'era disciplina, cioè ancora oggi c'è, cioè, in Italia parecchia gente che sta facendo la Merkel, non è mica antipatica la Merkel, perché la Merkel metterebbe ordine laddove gli altri non lo metterebbero, come a lungo noi abbiamo pensato quando facevamo, eravamo in pieni pasticci comunali, duecenteschi, fra guelfi che si tiravano le orecchie l'uno all'altro, bianchi contro neri e così via, che l'unico intervento possibile era quello dell'imperatore. E questo rapporto un po' difficile alla Germania. Poi ovviamente lo buttiamo un po' nella caricatura, ma contemporaneamente anche nel rispetto, perché uno pensa al cruco rozzo, però quando con la sua automobilina indigena si fa sorpassare dalla macchina fatta dal cruco rozzo, non pensa più che sia rozzo il cruco, perché lo vede andare con la macchina, funziona molto meglio. Ecco, se ci pensa davvero, io adesso, se vogliamo più navigare nei luoghi comuni, la stessa automobile che lei ha definito, ma che tanto possiamo definirla, che è la Mercedes, l'automobile per eccellenza, quella che nel sogno strutturato anche, di ogni... Anche Volkswagen. La Volkswagen, diciamo, che era, diciamo, l'automobile che non si rompeva mai, non si guastava mai, sì. L'automobile che ha carrozzato un'intera generazione di giovani come tale, è una macchina tedesca, quindi dura, tutto ciò che era tedesco i nostri nonni ci dura nel tempo, non si rompe perché è roba tedesca. Se oggi pensa allora che la Volkswagen di oggi è una macchina di lusso, sì, assolutamente sì, è da fighetti. Come la Smart è una macchina da super fighetti, anzi da super fighette. Infatti ci stiamo cominciando a chiedere delle domande bizzarre: come mai questi tedeschi, che sono così disciplinati, cattivi e ordinati, fanno delle automobili che vanno così bene e possono andare a 190 in autostrada e muoiono meno di noi? Mi siamo costretti ad andare a 130 con delle macchinette indigene che una volta erano buone, oggi non sono mica più tanto apprezzate dal consumatore, e siamo costretti dai limiti di velocità perenni. Allora, si viene il dubbio che questo rigore tedesco sia invece anche un diritto alla democrazia che a noi è venuto a mancare. È mica facile dare il giudizio oggi. Sentiamo un attimo l'ascoltatore Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Volevo iniziare con una frase che dice: gli italiani non amano i tedeschi ma si fidano di loro, mentre i tedeschi amano gli italiani e non si fidano di loro, no? Quindi diciamo, c'è questo rapporto di amore, non dico odio, ma di non fidarsi, in quanto diciamo, è chiaro, Germania... hanno avuto qualche anche buona ragione dal loro punto di vista di non fidarsi troppo degli italiani. Certo, innanzitutto la Germania è un paese riformato, no? Mentre noi siamo un paese cattolico, e questo ha... Infatti, diciamo... Daverio l'ha posto come primo discrimine. Sì. Il nostro spirito papalino, il nostro spirito un po'... Ecco, quindi diciamo, cioè, il discorso del tedesco che quando fa una cosa la fa, quando lavora, non va al posto di lavoro soltanto per guadagnare lo stipendio alla fine del mese, cioè il lavoro ha una propria serietà. Per cui anche, per esempio, se lei ha a che fare con ditte tedesche, cioè, una cosa fondamentale era la puntualità. Cioè, se lei ha dei termini di consegna, cioè il termine di consegna è un prodotto in se stesso, cioè il termine di consegna viene considerato la stregua della qualità del prodotto. Ma infatti è entrato nel luogo comune, cioè è venuto preciso come un tedesco, quello esatto, è un tedesco, esatto. Si dice, cioè, non so, stai tranquillo, è un tedesco, quello al momento giusto c'è, non c'è problema. Cioè, nel senso che diciamo, anche noi qui in Italia, no, a volte diciamo sì, ma già nel pensiero sappiamo che no. Ecco, questo il tedesco è una cosa che normalmente... E questo, fa. Come c'è davvero, è l'aspetto positivo, per cui noi sì, ammiriamo. Sì, esatto. L'aspetto negativo, ci fanno paura perché questo rigore non fa parte della nostra intima natura, più portata all'ambiguità. Certo, però... Però ecco, guardi, questa è tutta una filiera, di, diciamo, serietà politica, serietà economica, e quindi diciamo, ed è questa la forza della Germania, insomma, cioè, anche perché dovute a radici storiche con Federico il Grande, no, che praticamente ha istituito uno Stato in cui il cittadino si fida dello Stato. Sì, no? Ma noi, guardi, lei fa citazioni corrette, Rali, poi mi piacerebbe più comprendere nel stile comune. Io questa mattina voglio elencare i luoghi comuni, perché sulle comuni si basa poi la percezione generale. Alcuni punti li abbiamo toccati, anche dei punti mi sembra consistenti e importanti. Abbiamo recuperato Stefano Morigi, filosofo della scienza. Stefano, ci sei? Buongiorno Gianluca. Non sei molto tedesco con le linee telefoniche che cadono? No, non lo sono mai stato molto tedesco, nonostante abbia frequentato a lungo... Hai studiato in Germania, il però. Paese, sì. Per quello che ho sentito c'è un aspetto cruciale che è stato indicato nel senso della responsabilità, nel rispetto delle regole, come una derivazione virtuosa della rottura col mondo cattolico attuata da Lutero, e che se vogliamo poi trova la sua illuministica traduzione filosofica nell'imperativo categorico di Kant. Però, come dici tu, gli stereotipi, seppur in maniera rozza, traducono un'ambiguità che c'è nella identificazione di un carattere, diciamo così, nazionale. Tu guarda la barzellettina del funghetto trallallà, tradotta oggi nella nostra politica economico-finanziaria, nella figura del cancelliere tedesco. Certo, ma non solo, ma puoi arrivare dalla farsa alla tragedia. Dopotutto un grande tedesco che era Karl Marx diceva, no, che la storia si ripete due volte, prima come tragedia e poi come farsa. E l'obbedienza alle regole, quella che a noi piace quando andiamo in Germania, perché tutto funziona, perché tutti pagano le tasse, perché nessuno viola i limiti di velocità sulle strade, però nella loro storia in tragedia è stato anche ha trovato la sua degenerazione in quell'obbedienza cieca che Hannah Arendt chiamava la banalità del male, cioè la grande tragedia nazista. E quando i grandi responsabili al processo davanti a un giudice gli si è chiesta responsabilità delle loro terribili azioni, hanno detto: beh, io non ho colpa, obbedivo a una regola. Quindi tutti questi stereotipi vanno letti nel loro nella loro luce illuminata e illuministica, ma anche in quelle degenerazioni che la storia ha conosciuto e che drammaticamente l'anima tedesca porta dentro di sé, e da cui tenta ancora oggi di dare una risposta, sia dal punto di vista sociale, economico, ma anche come la storia della filosofia racconta. Tanto tempo è che sei avvolato. Non ho capito la domanda. Tanto tempo è che sei avvolato. Ho capito la domanda. Allora? 6 anni e mezzo, va bene? 6 anni e mezzo cosa? Come si chiama il nostro capo di stato maggiore? Dunque, il capo ce l'ho qui sulla punta dello spinello, No! Terrore! Coprire il vuoto! Così impari a suggerire, dimmi allora. Non lo so. Ah! Questo era il film tratto dall'immarcescibile fumetto di Bombi Sturmtruppen, film non all'altezza del fumetto, che a noi allietò la fanciullezza e anche l'adolescenza. Le Sturmtruppen, questi soldatini tedeschi, tutti uguali, ma ognuno con i suoi caratteri, dall'estremismo di Siegfried von Nibelungen, che era il giovane che voleva affrontare con il sole in faccia la vittoria, il primo passo che fa, salta su una mina e rimane soltanto un troncone umano ricoperto di bende, il grande eroe, fino a tutte le altre macchiette. Ma i tedeschi, visti come li vede a Bombi, erano quelli che vediamo noi, e nonostante la guerra, nonostante le atrocità, nonostante le sconfitte, nonostante tutti i possibili ripensamenti, come tali si vedevano, come tanti soldatini. Questa mattina stiamo cercando con i nostri ospiti di allucinare, di concretizzare però quello che è il tedesco immaginario alla vigilia nell'imminenza della grande partita Italia-Germania, che sicuramente riporterà in luce, in superficie, tutti i luoghi comuni che ci hanno sempre alimentato sui tedeschi. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Sì, Bruno. Niente, volevo portare la mia testimonianza. Mi è successo recentissimamente, settimana scorsa, mi è arrivata una lettera dalla Germania, dal loro INPS, che praticamente mi dice, con una lettera scritta in tedesco e ogni tre righe tradotto in italiano, mi si dice: tu hai lavorato, infatti nel 65 sono stato in Germania a lavorare come emigrante, in regola, tutta. A loro risulta che io per circa un anno, non ho compiuto l'anno, ho lavorato presso di loro, e mi dicono: tu stai per compiere 65 anni, quindi hai diritto alla pensione di alla pensione di vecchiaia, ti preghiamo, mi hanno allegato un modulo apposito, ti preghiamo di compilarlo e di mandarcelo, anche se tu non avrai diritto, ci farei una cortesia, perché noi definiremo la tua pratica e quindi a quel punto lì ti diremo se ti spetta qualcosa, se non ti spetta. Questo a confronto di quello che fa l'INPS, cioè che deve andare lì e fare delle file chilometriche per pietire un'informazione. Questi prima della scadenza del 65esimo anno mi hanno scritto, ma mi hanno rintracciato dopo 42 cambi di indirizzo che io ho fatto. Quindi ma sono tedeschi, Bruno, mica scherziamo, è chiaro. Sì, sono tedeschi. Sì, queste sono le cose che noi meravigliano, che ci sembrano assurde, ci sembrano io impossibili. Io sono rimasto commosso da questa precisione teutonica e da questa efficienza. Però scusi, in assoluto un apparato burocratico così deve funzionare, deve avere la sicurezza di un database informatico, certo, se lei da qualche certo. parte risulta, la parte deve essere chiusa, la sua pratica, certo, se lei certo. ha versato, devono capire che fine abbia fatto. Questa certo. è quello che dovrebbe essere comunque una burocrazia. Noi abbiamo dei modelli sfilacciati, slabbrati, che ormai fanno parte del nostro DNA, che basati sull'aggiustamento, sull'intervento personale, sulla telefonata del funzionario che si conosce. Quindi troviamo grande meraviglia, come se vedessimo una sorta di miracolo improducibile a latitudini umane, ma in realtà è così. Alessio. Alessio. Sì, pronto? Eccomi. Sì, senta, sono moltissimi anni io che lavoro con i tedeschi e devo portare una testimonianza invece leggermente diversa da quella della precedente telefonata. Loro hanno sicuramente un pragmatismo che li porta a essere superiori per quanto riguarda il lato organizzativo. Hanno però tutta una serie di difetti che corrispondono ai luoghi comuni che gli italiani pensano di loro, cioè un popolo che non ha il senso dell'ironia, ha il senso del puffo di sicuro, però dell'ironia no. È un popolo che ha, voglio dire, il difetto, secondo me, di scaricare sempre sugli altri i problemi. Quando tu lavori con loro c'è un problema, prima di tutto è tuo, e dopo, voglio dire, diventa di proprietà comune. Ma come prima mossa è quella di addebitarlo a te. Ma adesso che sulla sua esperienza sta parlando, perché... Sì, ma guardi che ne ho parecchia di esperienza. Cioè, ho lavorato e sto lavorando con loro tutti i giorni praticamente. Lavoriamo siamo consulenti per le aziende di abbigliamento, e poi non è assolutamente vero che loro non fanno il nero, non è assolutamente vero che loro non si comportano in maniera onesta sempre in ogni caso. Hanno chiaramente delle regole che li costringono all'interno di determinati paletti, ma niente più di questo glielo posso garantire. Ma guardi, questo non mi meraviglia, parlavo ieri. Ci siamo detti in questi ultimi mesi che negli Stati Uniti non pagare le tasse significa essere additati alla pubblica vergogna, tutti pagano le tasse, è impossibile non pagare le tasse. Ha raccontato un signore che la figlia, che studia negli Stati Uniti, lavora al nero in una pizzeria, non so bene dove, e le danno un assegno a nome di un'inesistente signora messicana per poterla pagare al nero, quindi... È solo questione di escamotage. Vorrei che telefonasse anche qualche signora, perché stamattina vedo totalmente assenti le donne, forse pietrificate dal dubbio di essere interrogate sulla barzelletta della suora, ma non lo farò mai più, non la citerò poi più. Era semplicemente un ricordo fanciullesco per dimostrare come profondamente era sedimentato il luogo comune nel nostro imprinting scolastico. Flip D'Averio, vediamo di riprendere il punto sull'estetica. Ecco, l'estetica. Partiamo da un primo punto. Ecco. I tedeschi non sono mai esistiti, esistono da ieri mattina solamente. Per noi. Al punto, no, non per noi, non hanno un nome, cioè chi non ha un nome non può esistere. Per noi sono teutoni tedeschi, per i francesi sono alemanni, per gli inglesi sono germani. Perché lei è di origine alsaziana, per lei in maniera particolare. Quindi conosco bene. Per gli svizzeri addirittura si chiamano Svova, si chiamano Svevi, perché ognuno chiama il tedesco in base alla tribù che gli è più vicino. A sua volta i tedeschi chiamano tutti gli altri abitanti del mondo, quelli che non sono in Germania, Galli, Balcia o Belcia. noi oggi parliamo di identità che sono raffazzonate da ieri mattina. Pensate solo alla differenza caratteriale fra un uomo come Konrad Adenauer, che adorava l'Italia, che aveva la sua villa sul lago di Como e oggi è una bellissima fondazione di tedeschi che studiano l'Italia, e la Merkel, che invece è figlia di un pastore protestante e ragiona esattamente ancora identicamente a Martin Lutero, e quando pensa a Roma dice Roma è la Babilonia. Sono culture completamente diverse, si riassumono in un grande personaggio centrale che è Wolfgang Goethe. Quando Goethe viene in Italia la prima volta, per lui l'Italia è il paese dove fioriscono i limoni, no? Poi torna la seconda volta e fa delle riflessioni molto più dure, sono dei testi di Goethe terribili contro l'Italia, quindi dice sono tornato in Italia, come prima tutte le strade sono rotte e polverose, i loro pensano solo a fregare il viaggiatore, è l'unico paese dove i maestri del Stato, cioè i padroni dello Stato, pensano solo egoisticamente a riempirsi le tasche e il popolo è felice di camminare all'ombra dei loro palazzi. Andrebbe riletto Goethe oggi alla luce della contemporaneità. Però lui prima amava, poi dopo non amava più. Allora i tedeschi sono totalmente ambigui perché sono loro stessi ambigui. Io scherzosamente ogni tanto definisco i tedeschi in buoni e cattivi, in modo molto rosso, dicendo che, ma non sono l'unico a dirlo, molti tedeschi lo dicono anche. Il Linksrhein, gli abitanti a sinistra del Reno, e i Rechtsrhein, gli abitanti a destra del Reno. Quelli a sinistra del Reno sarebbero buoni perché sono stati civilizzati dai romani tanto tempo fa, e quelli a destra sono un po' più cattivi perché sono rimasti nei loro boschi a parlare con gli elfi. Ecco, quelli dei boschi e degli elfi rappresentano la parte sostanziale del carattere tedesco, che porta anche attenzione all'idealismo tedesco, quello che, per il quale in filosofia tutto avviene all'interno della testa del pensatore, come se all'interno della testa ci fosse qualcos'altro che la testa. Nella verifica il rapporto naturale dialettico mediterraneo con l'esterno avviene solo attraverso questa mediazione mentale, anche quando fanno gli scienziati. Allora questo li rende molto particolari. In realtà è un po' come se potesse, cioè, i tedeschi sono dei barbari diventati ieri mattina civili. Io credo che saranno civili per parecchio tempo e che non faranno più i pasticci che hanno fatto 60 anni fa, perché si sono radicalmente trasformati. Noi siamo invece dei civili che sono diventati barbari. In questa differenza radicale stanno tutti gli equivoci fra gli uni e gli altri, perché loro pensano di poter mettere ordine, ma non è mica vero. Come diceva il signore di prima, e ha ragione, guarda, io conosco bene la Germania, la quantità di nero che si fa nei ristoranti e nelle botteghe tedesche è impensabile, però il sistema fiscale è in grado di capire quanto nero fa e se uno esagera gli dà la scopola. È sotto controllo anche quello. Anche quello in un qualche modo è monitorato, la macchina di monitoraggio tedesca è perfetta, quella amministrativa funziona benissimo. Il rapporto col mondo del lavoro può essere talvolta molto molto severo, però lui obbedisce e partecipa, e noi siamo radicalmente diversi, ma li guardiamo come un esempio, loro ci guardano talvolta come un sogno. È una delle più belle mostre che ho partecipato come realizzatore una ventina d'anni fa a Monaco, si chiama Il Mito Italia. Era Il Mito Italia, è il Wintermärz, cioè racconti per l'inverno dei tedeschi. Cioè, nell'inverno germanico cosa fa il cruco? Sogna l'Italia. Poi quando ci arriva trova che la strada è polverosa e si mette a brontolare. Poi torna a casa e d'inverno risogna l'Italia. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birkin. Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Per fare buone cure occorre grande forza di volontà. Va bene, professore. Chi non tiene volontà... Naturalmente anche Fantozzi, quando deve fare la dieta, che deve dimagrire, va in una clinica dove c'è un medico tedesco che è implacabile, lo tenterà alla fine con le polpette, con i famosi polpette che Fantozzi tenterà di mangiare senza farsi cogliere, il furbastro italiano integerrimo tedesco, dice tu mangia e lo fa portare via dagli scherani naturalmente nella sua cella di dolore. Giovanna, buongiorno, finalmente una donna. Buongiorno, sì, non parlo per me ma per mia figlia che è stata... giovane medico prima di laurearsi ha fatto Erasmus in Germania e dunque aveva in una piccola città del Baltico nonostante fosse piccola tutti gli studenti di Erasmus o anche giovani medici eccetera avevano la loro foresteria con camera con bagno per 130 euro al mese con sotto le cucine eccetera, eccetera. In ospedale il suo tutor si portava dietro lei e al massimo un'altra collega. Un buon gustaio. Dove portava? Si portava dietro in corsia, naturalmente. Si portava dietro in corsia, quindi mentre qui lei studiava a Tor Vergata, qui erano 20 studenti con un tutor che non li cagava. Sì, che non li considerava grandemente, sì. Erano 20, non riuscivano a vedere neanche un paziente. Non solo, lei poi si è laureata e mi ha detto guarda io vado a fare la specializzazione in Germania dove gli pagano 2500 euro. E dov'è adesso la sua figliuola? Dunque adesso se n'è andata in Inghilterra perché è tornata in Italia, si è laureata, sta finendo la specializzazione ed è andata in Inghilterra un anno in un paese, in un ospedale d'eccellenza e adesso siccome deve finire qui la specializzazione perché l'aveva iniziata qui, naturalmente se ne torna in Inghilterra a 6.000 euro al mese, mentre qui ne danno 1.700, in Germania ne davano 2.500 come specializzanda, mentre in Italia la pagavano con una borsa di studio 900 euro al mese e dovendo pagare la tassa comunque universitaria. Ma non getti adesso medico... sale sulle nostre già sanguinanti ferite. Fermiamoci all'esperienza tedesca, mi sembra intensa, multipla e di perfetta soddisfazione. Grazie. Andrea. Sì, dottor Nicoletti, buongiorno. Io volevo fare una considerazione e volevo dire questo, sono veri i luoghi comuni che riguardano i tedeschi, ma secondo me derivano da un gap generazionale, nel senso che i metalmeccanici della Ruhr che venivano fino a qualche anno fa in Romagna, sulle spiagge romagnole, sui litorali, incarnano abbastanza il tedesco dei luoghi comuni. Che è un tedesco dei luoghi comuni che ha ancora... Quello per farci capire, con i sandali e i calzini bianchi sotto. Bravo, bravo, e la Mercedes color verde pisello, certo. Aggiungerei. Che, ecco. Allora, quei signori lì incarnano i luoghi comuni perché hanno, secondo me, ancora il portamento e la dialettica di quei signori che 60 anni fa diedero poi gli umarell tedeschi, diciamo però arricchiti, esatto, con i soldi. E invece esatto, quelli di oggi come sono? Adesso gli altri sono diversi, sono i giovani sono diversi. I giovani spesso e volentieri alla parola Italien aggiungono l'aggettivo schön, che vuol dire bello. Quindi hanno un concetto verso di noi che è un concetto tutto sommato positivo. Si ritornano al concetto estetico di personaggi come von Gloden che veniva a fotografare giovani siciliani abbarbicati e nudi e coperti di caschi di fichi d'India sulle certo. rovine di Agrigento, di Selinunte. Allora, oltre a quello io rimarrei più in un campo diciamo un po' più economico. Ci stimano, ci apprezzano, lo sanno che facciamo bene il nostro lavoro, produciamo merci che loro amano tantissimo, non soltanto le Ferrari, io parlo proprio un po' più in generale, lo sanno che abbiamo mille difficoltà e in un certo senso sono solidali e in tanti casi sono molto molto molto cooperativi con noi, si rendono conto delle difficoltà che abbiamo a sostenere una situazione economica e lavorativa che è non difficile, difficilissima. Allora quello che lei dice lo vedremo questa sera concretamente sul campo di calcio, se lei avrà ragione ci daranno l'onore delle armi e noi avremo la fortuna e la gloria di sconfiggerli sul campo di calcio e lo ci diranno: beh sì, siete buoni, siete belli, siete bravi. Grazie, saluto il professore Alessandro Chiappini, che è l'ultima trasmissione che faccio con lui, perché domani è l'ultimo Melog e regalerò libri infami a tonnellate.